24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:32 minuti, eccoci cari ascoltatori a concludere la settimana con voi, 24 mattino in diretta fino alle 9. Nel nostro sondaggio di oggi parliamo dunque di questa inchiesta sul terremoto dell'Aquila. L'Aquila andava evacuata, la procura dell'Aquila dice era prevedibile un terremoto, andava evacuata la popolazione e quindi la commissione grandi rischi è sotto inchiesta per omicidio colposo. Vi chiediamo, vi sembra un'accusa credibile questa, prevedere i terremoti? Radio24.it, bianco o nero nella home page per votare. Questo è uno dei temi di cronaca che troviamo sui giornali. Giornali che andiamo come di consueto a sfogliare. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, inspired performance. Vi presenta In primo piano. Venerdì 4 giugno e dunque aperture diversificate la manovra, ma non solo. In primo piano, in pensione più tardi le statali, così apre il Sole 24 Ore il nuovo monito dell'Unione Europea che ha detto bisogna parificare le pensioni, l'età del pensionamento delle donne a quello degli uomini, 65 anni, se no è discriminazione. Il Messaggero anche, Europa, le donne lavorino fino a 65 anni. Repubblica invece sulla manovra, giudici in sciopero, cresce la protesta. Per il Corriere della Sera le intercettazioni, la legge cambia. Poi c'è il Giornale che per tre quarti di prima pagina fa uno spettacolare pezzo di Marcello Veneziani che poi leggerò in parte, su Tremonti, ministro dal cuore surgelato. La vicenda del vescovo padovese ucciso in Turchia, Turchia sacrificio di un vescovo e l'apertura di Avvenire, così come La Stampa ucciso vescovo italiano. Queste alcune aperture dei giornali, qualcos'altro magari vedremo, per esempio l'Unità apre proprio sul tema del nostro sondaggio, c'è Bertolaso sul sfondo le macerie dell'Aquila, troppo tardi. L'Aquila, 7 avvisi di garanzia per mancato allarme, omicidio colposo. Come detto però, la manovra. Allora, a protestare ora sono i magistrati. Domani decideranno le modalità dello sciopero. I magistrati proclamano lo sciopero contro i tagli, a pagina 11 del Corriere. Ma ci sono anche i farmacisti, Federpharma, che è in subbuglio. Ieri ha minacciato la chiusura del 25% delle farmacie se non verranno modificate le misure adottate alla finanziaria. Certo, però, lo sciopero dei magistrati è quello che più colpisce. Secondo Repubblica i giudici perdono fino a 18.000 euro in tre anni. C'è anche un'intervista alla PM, al magistrato Maria Cordova, una invece contraria alla protesta, dice: lo sciopero non è corretto nei confronti di chi guadagna una miseria ed è ugualmente soggetto alla falcidia della finanziaria. Parla al Corriere della Sera. Della Sera dice: la situazione economica è difficile, non mi sembra opportuno protestare mentre vengono colpiti i cittadini che percepiscono stipendi molto più bassi dei nostri. Non mi sento di fare questo sciopero e non lo farò. Tra l'altro, nella manovra, attenzione, è rispuntata con un emendamento proposto dal relatore Donato Bruno al disegno di legge sulla Carta delle Autonomie. È rispuntata che cosa? Chissà quante ore durerà. Il taglio delle province con meno di 200.000 abitanti è rispuntato in Parlamento. Staremo a vedere, insomma, quante ore durerà. Dicevamo, la manovra è sempre in primo piano. C'è il Sole 24 Ore, per esempio, che ieri aveva tirato fuori questo aspetto della manovra sul taglio dei compensi per gli organi collegiali degli enti che ricevono finanziamenti pubblici, cioè coloro che siedono nei consigli di amministrazione ora avranno cariche onorifiche, non più remunerate. Ebbene, Gianni Trovati oggi ci ritorna, perché compensi zero anche per i CDA delle società. L'economia, dice il Ministero, la stretta va applicata a tutti gli enti. Guardate che questa norma è una norma che, se passerà in Parlamento, io lo ripeto, se passerà in Parlamento, infatti Gianni Trovati dice già sono pronte le barricate sicuramente su questa norma, imporrà un'austerità incredibile sui membri, sulla pletora si dovrebbe dire, dei consiglieri di amministrazione degli enti e società anche private, ora fa sapere Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. la norma sul compenso zero negli organi collegiali che rende onorifiche, cioè senza stipendio, solo un gettone da 30 euro, tutte le cariche nei consigli di amministrazione, collegi sindacali, organi di revisione degli enti che a vario titolo ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. E ci sono anche le società private o pubbliche che siano, ma anche private. Per esempio, potrebbero essere migliaia, dalle ferrovie alla RAI, ne abbiamo parlato ieri, fino alle società aiutate dalle finanziarie regionali, molti gli organi collegiali a rischio stipendio. Certo, fare una lista ora è un po' prematuro, ma su questo fronte, infatti, dice Gianni Trovati, alimenterà sicuramente il dibattito parlamentare. Chissà se passerà questa norma, che molti giudicano come sbagliata, esagerata, staremo a vedere. Intanto, come detto, un altro punto non è legato alla manovra, ma questo certo di economico molto interessante, come detto, l'apertura del Sole 24 Ore riguarda le pensioni, vale a dire il nuovo monito dell'Unione Europea che ha detto bisogna adeguare l'età pensionabile entro il 2012 delle donne agli uomini. Portare quella delle donne, alzarla a 65 anni come gli uomini, altrimenti è una forma di discriminazione. E dunque Davide Colombo ne scrive a pagina 3: il governo deve riaprire il dossier pensioni in tempi velocissimi, a 2 mesi per rispondere, altrimenti ci sarà un nuovo deferimento alla Corte di Giustizia Europea e lì partono anche le sanzioni. Bisogna allineare l'età pensionabile a 65 anni con un sistema di innalzamento graduale scattato a gennaio per arrivare al regime tra 8 anni. Altrimenti, appunto, l'Unione Europea dice: vi puniremo. C'è un'intervista, perché sì, a un medico primario, Luisa Antonini, che dice: per uomini e donne ci vuole la stessa soglia. Perché no, Patrizia Fabbri, insegnante, intervistata sempre sul Sole 24 Ore, dice: il problema è il tipo di lavoro. È il solito dibattito se sia giusto o meno. Per l'Unione Europea è assolutamente imprescindibile allineare le pensioni. Dicevamo, la manovra però regala appunto questi momenti di... come definirle? Alcuni giornali definiscono tensione strisciante, crescente e notevole tra il ministro Tremonti e Berlusconi. Tanto che, sapete cosa scrive Repubblica? Addirittura a pagina 2, Repubblica scrive che Tremonti minaccia di lasciare e il premier lealtà tra me e il ministro. Ieri c'è stato un comunicato che ha ribadito la sintonia tra Berlusconi e Tremonti sul lavoro della manovra. Secondo Repubblica questo comunicato è stato dettato da Tremonti, cioè: caro Berlusconi, fai un comunicato, a questo punto devi intervenire direttamente, fare cessare il massacro, altrimenti non ho più la tua fiducia e il mio impegno termina qui. Per il Sole 24 Ore invece c'è grande sintonia, per Libero, e anche per Libero non c'è grande sintonia. Tremonti chiede aiuto. Il CAV, sei leale, ma il capo resto io. Una tensione, scrive Libero a pagina 8, salita al punto che alla fine Silvio Berlusconi ha deciso di intervenire. Perché Giulio Tremonti da giorni, minacciando più volte le dimissioni, ha chiesto al Cavaliere di sostenere pubblicamente il suo lavoro. E dunque, qual è la realtà dei rapporti tra Berlusconi e Tremonti? Beh, certo, ad Arretta, Repubblica e Libero, giornali schierati su diverse posizioni politiche, certamente la situazione è di tensione, tanto che il comunicato di ieri sarebbe stato in qualche modo chiesto con forza da Tremonti per dire: ora sostienimi, altrimenti io lascio tutto. A questo proposito voglio andare appunto sul giornale. Marcello Veneziani fa un articolo che occupa 3/4 di prima pagina: ministro dal cuore surgelato è Giulio Tremonti. In realtà è un articolo lunghissimo che si conclude con un complimento, ma sentite che scrive Marcello Veneziani all'inizio: sarò perverso, ma Giulio Tremonti mi ispira un'infrenabile simpatia. Le sue crudeltà mentali, le sue crudità ministeriali mi mettono il buon umore, i suoi tagli mi eccitano. Quando ti guarda sembra che stia prendendo la mira. Mi piace vederlo quando fa soffrire Bondi. Mi ricorda Ercanaro quando chiudeva in gabbia le sue vittime e gli praticava dolorosi tagli. Mi esalta quando prende a calci Brunetta o quando gela ministri, governatori e sindaci che battono cassa. ma quando fa coppia con Berlusconi raggiunge il top. Tremonti è l'anti-italiano per eccellenza, l'esatto opposto di Berlusconi, che invece è l'arci-italiano, la gigantografia dell'italiano medio. Gioviale l'uno, burbero l'altro, piacione l'uno, dispiacione l'altro, uno incline al riso e il sorriso, l'altro non va oltre il ghigno e il sogghigno. Il messaggio subliminale dell'uno è stringete la cinghia, il messaggio dell'altro slacciate le cinture. Tutto ciò che dice, tocca, fa Berlusconi sarebbe impensabile che lo facesse, lo dicesse, lo toccasse Tremonti, donne, barzellette, canzoni, calcio e fusioni espansive. Sarebbe impensabile vedere Tremonti ballare o vederlo stringere una donna se non ha la carotide per sopprimerla. Misogino è forse riduttivo. Credo che Tremonti non sopporti nemmeno i bambini, ma ho forti dubbi anche su vecchi e in genere adulti. Se gli propongono una escort, Tremonti chiede quanti chilometri fa con un litro. Se lo invitano al compleanno di una ragazza, le manda una copia del suo libro La paura e la speranza, ma poi non si presenta al festino e in compenso le manda la visita fiscale. Se gli infilano una bella zoccola nel letto, ordina la derattizzazione. Se gli fanno ingurgitare con l'inganno una pillola di Viagra, al più gli scompare la R moscia. Questo è Veneziani, ma di Tremonti io mi fido. Questa è la conclusione. Tremonti è in più versioni cabrio, station wagon e coupé, ma in questa crisi sono contento che sia lui al tesoro. Ministro dal cuore surgelato è il ritratto di Marcello Veneziani, imperdibile, mentre la ricordate la croce rossina di ieri, quella che Berlusconi, quando è passata sotto il palco, sembrava dire però sta croce rossina. Oggi il Corriere ne pubblica un profilo alta, elegante, viso luminoso. L'infermiera statuaria che ha strappato l'apprezzamento del Premier è un ufficiale della Croce Rossa, selezionata dopo 10 giorni di addestramento. Su di lei riserbo assoluto della Croce Rossa. Restano le immagini che fotografano il suo passaggio davanti al palco dell'autorità e il visibile apprezzamento del Premier Silvio Berlusconi, accompagnato da un'entusiastica valutazione verbale. Quel sembrava proprio dire però che croce rossina. L'hanno scelta per portamento che esprime dignità, decoro e senso di appartenenza, certo anche per la bellezza sicuramente molto molto visibile. La signora ha già compiuto, questo si sa, e basta 46 anni. In primo piano. Cota per ora si tiene le due poltrone, è il titolo della Stampa, sono la questione dei doppi incarichi dei parlamentari. Già ce ne siamo occupati di parlamentari e in questo caso Presidente della Regione Piemonte, che non hanno ancora deciso e non decidono se stare in Parlamento o stare alla Regione. In questo caso Cota rimarrà sicuramente Presidente della Regione. Tra l'altro Cota ha questo problema in più, siccome pende un ricorso al TAR... Pende un ricorso al TAR che potrebbe inficiare, insomma, se accolto, la sua elezione. Allora Cota ha chiesto alla giunta per le elezioni della Camera di dire: per favore, aspettate un attimo, per il momento mi tengo due poltrone, perché non sia mai che se perdo e bisogna andare a rivotare la regione Piemonte perché perdo il ricorso al TAR, perdo, se intanto mi sono magari dimesso alla Camera, mi ritrovo senza due poltrone. Quindi per ora si tiene le due poltrone, ha chiesto alla Camera: datemi un po' più di tempo per decidere. C'è molto di attualità internazionale, ovviamente il vescovo italiano ucciso, ma io voglio andare sull'altra notizia internazionale, vale a dire il rientro da Israele dopo che sono stati incarcerati degli attivisti che hanno cercato di arrivare alla striscia di Gaza con gli aiuti umanitari, sono stati respinti, c'è stata anche l'uccisione di 9 persone, ne parlerà Oscar Giannino oggi alle 9. Io trovo dei racconti, racconto essere stati trattati male, trattati come bestie, sicuramente non è stata una scampagnata, questo sì. Però ci sono delle frasi. Ora su quella nave noi non c'eravamo, nessuno di noi c'era, quindi non lo sto a giudicare, ma quando leggo alcune testimonianze, come quella del regista Manolo Luppichini, che dice: ci sono persone che sono state giustiziate con un colpo alla nuca. Un ferito non era in grado di alzarsi, un soldato gli ha sparato con un colpo in testa, davanti a tutti. O quest'altra testimonianza, i morti, altro che 9, Sono almeno 19, mi ha detto una australiana sulla nave, ma gli israeliani buttavano i corpi in mare. Così, sono entrati, uccidevano, giustiziavano con un colpo alla nuca e buttavano i corpi in mare. Ripeto, noi non c'eravamo su quella nave, ma il premier turco Erdogan, uno che con Israele non è stato certo tenerissimo, visto quello che è successo, ha detto: ma che corpi dispersi? Le vittime sono 9, che sono tante, sono 9 morti. Però quando uno arriva e dice: sparavano un colpo in testa, giustiziando le persone, buttavano i cadaveri in mare, e lo stesso premier turco dice: non ci sono persone disperse, gli uccisi sono 9. Ora io mi chiedo che razza di testimonianze sono, anche perché ovviamente tutti esultano, il mondo ha parlato di noi e ora ci riproveremo. Va bene, riproviamoci, mi sembra il modo giusto di riprovare a mettersi in mare e tentare ancora di andare verso Gaza. Oh, troviamo molto anche del tema del nostro sondaggio, omicidio colposo, è l'apertura di questo tema, pagina 7 del Fatto Quotidiano. La procura dell'Aquila accusa la protezione civile per mancato allarme del terremoto dell'Aquila. La commissione grandi rischi si era riunita e dice doveva fare evacuare l'Aquila perché c'era il rischio dopo gli sciami sismici di terremoto. 7 indagati, c'è chi polemicamente dice c'è un terremoto, arrestate gli scienziati, come il giornale. C'è invece chi, come l'Unità, mette in prima pagina troppo tardi la foto di Bertolaso sullo sfondo delle macerie dell'Aquila, con anche la famosa intercettazione in cui Bertolaso parla di questo Giuliani, che sarà nostro ospite alle 8.30, colui che dice: io avevo previsto tutto. E Bertolaso che ha detto: bisogna massacrarlo, quello che continua a spargere questo terrore. Noi vi chiediamo, vi sembra un'accusa credibile quella di dire dovevano far evacuare l'Aquila, il miraggio di prevedere i terremoti? Anche pagina 15 del Corriere, Giovanni Caprara ne scrive, è un miraggio scientifico, eppure su questo si basa sostanzialmente la procura dell'Aquila. Voglio andare alle due segnalazioni conclusive, questa ancora non c'è pace davvero per Roberto Saviano. La RAI taglia la trasmissione di Saviano. Questo pagina 13 di Repubblica. Saviano sta mettendo a punto insieme a Fabio Fazio 4 puntate, un programma in 4 puntate a partire da settembre, diciamo nel prossimo autunno. Solo che un paio di temi. Allora, un tema sarà su Pier Giorgio Welby, una puntata. Un'altra sarà su credo l'Andrangheta, ma sono le altre due puntate, una sulla ricostruzione del post terremoto in Abruzzo e una sulla vicenda dei rifiuti in Campania, che avrebbero in qualche modo fatto drizzare le antenne a qualcuno e a dire: quelle due puntate forse sono a rischio, o è meglio, da 4 serate scenderemo a 2. Ovviamente la squadra di Fazio, che sta mettendo a punto questo programma, dice: se ci dimezzano il programma non si fa niente, la RAI taglia la trasmissione di Saviano. Questo è il titolo di Repubblica. Infine, un tema che certamente farà discutere, è un tema molto serio, quello della depressione postpartum, che spinge molte madri a uccidere i propri figli. Molte più donne di quanto si immagini hanno provato l'impulso di eliminare il bambino appena nato, inizia così l'articolo di Margherita De Bac. Ebbene, c'è un'associazione, alcuni medici, la Società Italiana, per esempio, dei ginecologi, presieduta da Giorgio Vittori, ha proposto: per le mamme depresse o a rischio depressione postpartum ci vuole il trattamento sanitario obbligatorio. Un po' alla stregua di quello che si fa di coloro che soffrono i disturbi di mente, i malati mentali. Certo, non la stessa cosa, ma dovremmo prevedere una legge che preveda assistenza 24 ore su 24 alle mamme a rischio di infanticidio. Ci fermiamo qui allora, votate il sondaggio su radio24.it, vi sembra un'accusa credibile quella di dire dovevano far evacuare l'Aquila perché il terremoto si sapeva, si poteva prevedere, stava per arrivare? Sono le 8:17 minuti, siamo tornati in diretta, eccoci a 24 mattino con la nostra Deborah Rosciani. L'efficienza energetica e ambientale in azione. Cofeli, gruppo GDF Suez. Vi presenta Soldi e dintorni. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno, buon fine settimana. Grazie. Ci portiamo avanti. Ci portiamo avanti e parliamo anche di modalità con cui prenotare un po' di vacanze. Oh, sì. Ce l'hai in mente. Hai abbandonato lo shopping. Ed è che... Ma dai, adesso queste sono delle cattiverie proprio così gratuite. No, che tu che vai, cose che vai dicendo di me in giro. Adesso che... pensa alle vacanze in giro. Lo dico al microfono. Dico a questi 2 milioni e 300 mila ascoltatori di Radio 24. No, guarda, ritorniamo a parlare di viaggi, di prenotazioni, di vacanze, perché è stato peraltro già la seconda volta che affrontiamo questo tema questa settimana. Appunto, ma ti sei già stufato, mi stai facendo, mi stai muovendo un rilievo? No. Allora, ci ricordiamo che qualche giorno fa abbiamo parlato del cosiddetto pacchetto sorpresa Zanzibar del tour operator Weekend Tour. Ci ricordiamo cosa è successo l'anno scorso con Totomondo, tutti i disagi che hanno dovuto sopportare i passeggeri di ogni volo aereo, di ogni compagnia, quando è scoppiata l'emergenza del vulcano islandese. Persino l'amministratore delegato di Ryanair, a chi chiede il rimborso per quella storia lì, ha apostrofato i suoi passeggeri, i suoi clienti, quindi come bastardi, insomma, l'hai letto, no? Alessandro, su tutti i giornali. Insomma, questo è un tema che ci piace affrontare spesso, perché abbiamo letto di un'altra notizia che è stata pubblicati in maniera anche abbastanza enfatica su tutti i giornali. Poi noi ieri ci abbiamo indagato un po' su e non abbiamo ben capito come stanno le cose. Intanto ringrazio e saluto di essere con noi questa mattina il presidente di un'associazione dei consumatori dell'ADOC, Carlo Pileri. Presidente, buongiorno. Buongiorno, salve. Ricostruisco un po' quello che è successo. È successo che l'antitrust ha fatto sapere attraverso un'agenzia stampa che ha aperto un'istruttoria su tre grandissime, molto note società che operano nel turismo online: Expedia, eDreams e Opodo. Praticamente l'istruttoria, una per ciascuna di queste società, è partita dopo che sono arrivate numerose segnalazioni al contact center dell'autorità garante dei prezzi. Numerose, in realtà abbiamo ricostruito, sarebbero alcune decine, l'autorità non ci ha detto esattamente quante. E in pratica i nomi di queste tre società sono finite sulle pagine dei giornali perché a quanto pare non adottano dei criteri di trasparenza molto, come dire, quelli che sarebbero necessari nel momento in cui si inizia e poi si termina la procedura di prenotazione delle vacanze attraverso ovviamente il loro canale. Noi abbiamo sentito anche, dopo l'antitrust, anche le società interessate e ci hanno detto che esattamente i rilievi mossi dall'autorità garante non sono ben chiari. Allora io vorrei capire intanto, visto che sicuramente poi questo momento in cui si stanno utilizzando già questi canali per prenotare le vacanze, per queste aziende ovviamente il danno d'immagine che è arrivato non sarà del tutto indifferente, volevo chiedere al presidente Pileri, visto che dai diretti interessati non sono riusciti a ricostruire esattamente quali sono le contestazioni mosse dall'autorità garante, mi chiedo se i consumatori si stanno rivolgendo a voi per contestare qualcosa, presidente. Ma non tantissimi, anche se chiaramente lamentele ci sono in tutti i settori, a volte molto motivate, a volte hanno bisogno semplicemente di spiegazioni. In questo caso noi abbiamo fatto anche una piccola indagine con delle persone, dei ragazzi che utilizzano molto questo tipo di prenotazioni online per aiutarci a capire quali potevano essere i maggiori problemi. Voglio fare però una premessa, che l'antitrust comunque quando indaga ben venga, perché ci aiuta noi associazioni consumatori e consumatori in genere a risolvere o chiarire problemi che ci sono nel mondo del consumo. Quindi diciamo che ogni volta che ci sono le inchieste vanno bene, le inchieste come tutte le cose possono portare a dei risultati certo. E quindi a delle multe, oppure scoprire che le cose vanno bene e quindi il problema non sussiste. Quindi diciamo non è che il fatto che si aprano indagini sia un fatto negativo. In ogni caso, come dire, la partenza dell'istruttoria, ecco, se arrivano molte segnalazioni, molte contestazioni, molti rilievi da parte appunto dei consumatori, è chiaro che deve, è un atto dovuto, in qualche maniera deve partire. E deve sempre bene, perché insomma aiuta a noi e aiuta anche le società a mettersi a posto se non lo sono, insomma, quindi diciamo che è un bene per il mercato. In questo caso specifico, cosa sono queste società, questa Expedia, eDreams e Opodo e altre che ci possono essere analoghe? Sono sostanzialmente delle agenzie online, agenzie di viaggi online, attraverso le quali è possibile scegliere il volo più conveniente o che comunque è più confacente alle nostre esigenze, l'albergo, il noleggio delle auto, cioè come avviene in qualunque agenzia di viaggi normale, in questo caso però è un'agenzia online. Sono molto usate dai giovani, diciamo sotto i 40 anni è uno degli strumenti più usati per fare le prenotazioni, hanno il vantaggio che ti comparano i prezzi tra più compagnie aeree, tra quasi tutte le compagnie aeree, low cost e non low cost, quindi puoi avere una comparazione senza dover andare sito per sito e vederti i vari prezzi. Ci sono alcune cose che potrebbero essere migliorate, perché essendo agenzie di viaggio di fatto mettono delle commissioni, commissioni che a volte sono basse, possono essere di pochi euro, a volte possono arrivare ai 20-30 euro, quindi analoghe a quelle che sono le commissioni delle agenzie di viaggio tradizionali. Non sempre queste commissioni sono indicate in maniera chiara dall'inizio o nella pubblicità, e forse è su questo che indaga, siccome l'antitrust sta indagando anche su come viene fatta la pubblicità, probabilmente è su questo che indaga, perché chiaramente mettere un prezzo che può essere di 20-30 euro meno di quello che sarà il prezzo finale può indurre un consumatore a fare un certo tipo di scelta piuttosto che un'altra, e quindi può danneggiare la concorrenza nel mercato. Diciamo che un po' quello che infastidisce, secondo quello che possiamo interpretare, è che in genere questa commissione salta fuori quando è già stato inserito il codice della carta di credito, quindi il pagamento è già stato avviato, perché no, poi veramente non quando è stato avviato il pagamento, salta fuori dopo che tu hai messo tutti i dati, incluso quello dei tuoi. Esattamente, però prima ancora che tu dia l'ok dell'avvio. Ecco, benissimo. Quindi lo sai prima. In realtà però si potrebbe tornare indietro, perfetto. Esatto, uno potrebbe annullare, però è anche vero che uno che ha fatto tutta la procedura magari si è organizzato. Anche perché c'è da dire una cosa che magari chi non usa internet spesso non ci fa caso, che questi prezzi variano da secondo a secondo, non da minuto a minuto. Cioè, noi abbiamo fatto ieri un esperimento con un volo su Madrid, abbiamo visto la prenotazione e abbiamo ottenuto un prezzo di 89 euro, compresa la commissione. Dopo, ma veramente il tempo di riuscire e rientrare, quindi saranno stati 30 secondi, il prezzo era salito a 148. No, questo glielo posso confermare, Presidente, perché a me l'anno scorso con la mia compagna di viaggio per gli Stati Uniti è successo la stessa cosa. Abbiamo monitorato un viaggio per una settimana e ovviamente poi nel momento in cui questo si è abbassato in una maniera che noi abbiamo ritenuto accettabile, abbiamo prenotato, ma abbiamo monitorato una settimana, conferma proprio del fatto che effettivamente cambiano frequentemente. Esattamente, è così, quindi bisogna stare attenti anche a questo elemento, perché possono, uno può dire io ho preso il volo a 80 euro, quell'altro dice ma come, io l'ho pagato 150, un imbroglio, no, perché variano continuamente questi prezzi. Quindi insomma questo dovrebbe essere, come dire, un po' più chiaro all'inizio dell'avvio della procedura, quando magari soprattutto chi non conosce come funzionano questi canali che intermediano viaggi, appunto quando non lo sanno. C'è un altro aspetto che mi sembra di aver capito potrebbe essere tra quelli contestati dall'autorità garante, è per esempio se un viaggiatore che ha già attivato tutta la sua istruttoria sul canale online per prenotare il suo viaggio, magari all'ultimo momento decide di annullare questo pacchetto, ovviamente la compagnia si impegna a riaccreditare tutto quanto l'importo sul suo conto corrente. E lì un altro tema è quello dei tempi del riaccredito, però le agenzie mi hanno detto ieri non dipende da noi ma dipende dal circuito della carta di credito a cui il cliente si appoggia. Questo è un aspetto, Presidente, da valutare come? Sicuramente è importante innanzitutto che vengano fatti i rimborsi e vengano fatti sempre in base a quello che è stato detto all'inizio, cioè tante volte uno pensa di prendere il 100%, poi scopre che magari il rimborso è del 70% e questo non era indicato quando si è fatta la prenotazione. Quindi anche su questo elemento sicuramente più chiarezza ci vuole. Ora non mi riferisco a queste specifiche agenzie, parlo in generale per le prenotazioni e le. Diciamo che il tema della penale per il recesso lo consideriamo sempre molto poco. È vero, noi come consumatori dobbiamo essere più attenti innanzitutto, questo è un'autocritica che facciamo come associazione e come consumatori, nel senso molto spesso andiamo veloci perché abbiamo poco tempo, non leggiamo le clausole, molto spesso le clausole sono troppo lunghe e noiose, a volte sono in inglese e non in italiano, quindi c'è tutta una serie di problemi che sicuramente vanno visti e rivisti, però sicuramente questo elemento del rimborso non sempre è messo in maniera chiara, quindi questo sicuramente bisogna lavorare perché ci sia maggiore trasparenza, se in questo senso si muove l'antitrust, non solo con queste società ma con tutte, penso che sarebbe utile. Grazie Presidente Pileri, buona giornata. Noi tra l'altro non appena avremo dettagli in più sull'istruttoria, non appena appunto le società sapranno di più, un po' meglio che cosa viene mosso loro, abbiamo già promesso appunto a tutti quanti che organizzeremo una puntata di Salvadanaio per fare un po' più di chiarezza. Per adesso ci siamo un po' mossi con il condizionale. Alessandro, a Salvadanaio oggi una puntata con la collaborazione del Festival dell'Economia di Trento, parlerò di mutui. Alle 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan nel nostro sondaggio. Allora parliamo del terremoto dell'Aquila. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Lo facciamo perché la procura dell'Aquila ha indaga 7 persone perché sostanzialmente avevano effettuato in occasione della riunione della Commissione Grandi Rischi una valutazione dei rischi approssimativa, generica, inefficace in relazione all'attività e ai doveri di previsione e prevenzione. Hanno fornito alla cittadinanza aquilana informazioni incomplete, imprecise, contraddittorie sulla natura, le cause, la pericolosità, i futuri sviluppi dell'attività sismica in esame. Tradotto, l'unica decisione da prendere era forse evacuare l'Aquila, non l'hanno fatto, omicidio colposo. Tra questi anche i vertici, alcuni vertici della Protezione Civile. Vi sembra un'accusa credibile? Questo chiediamo. E tra l'altro io voglio partire da un'intercettazione, quella che è diventata famosa. Fabrizio Curcio, tecnico della Protezione Civile, chiama Bertolaso qualche giorno prima, il 12 marzo per la verità, del terremoto. Gli dice: c'è di nuovo quello scemo che stanotte ha iniziato a dire che ci sarà il terremoto devastante. Bertolaso. E chi è questo scemo? È Giuliani, che ogni tanto se ne esce con queste dichiarazioni. Bertolaso. Ma com'è che succede sta cosa? Che stai dicendo? Quello è un coglione e lo denuncio per procurato allarme. Il coglione è appunto Giampaolo Giuliani, che saluto, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Colui che è finito nelle polemiche perché da giorni si sbracciava, avvisava, guardate che arriverà un terremoto, poi il terremoto è arrivato. Qualcuno però dice, Giuliani, non nel giorno che prevedeva lei, però insomma lei è stato anche ascoltato dalla procura su questa indagine. Che effetto le fa oggi sentire che c'è questa indagine per omicidio colposo? Che effetto mi fa? Soltanto una rabbia, perché ritorna dopo più di un anno tutto il dramma che abbiamo vissuto in quei giorni, in particolar modo tutto l'impatto mediatico che ho vissuto subito dopo la denuncia di procurato allarme, i morti, la catastrofe della città, e oggi andiamo ancora avanti così, ecco. Lei però, Giuliani, sa che il tema centrale in base a questa inchiesta è sostanzialmente, si può tradurre così, ma allora si poteva prevedere questo terremoto, visto che non è stato detto evacuate la città. Lei dice di sì, ma su questo la comunità scientifica le dà contro in maniera totale. Lei continua a sostenere che si possono prevedere i terremoti con una presumibile certezza? No, è certo che si possono prevedere, è soltanto una piccola parte della comunità italiana, in particolare quella guidata dal dottor Boschi e dalle persone, dai ricercatori più fidati. Abbiamo dimostrato andando negli Stati Uniti il metodo e la tecnica che può essere utilizzata. Siamo andati a maggio al congresso di Vienna, dove abbiamo dimostrato insieme a Uchnov, Pulinets, Young, attori dal Giappone, gli stessi italiani dell'Università della Basilicata, Valerio Tramutoli e Pierfrancesco Biaggi dell'Università di Bari, che hanno presentato precursori per la possibilità di poter prevedere i terremoti. E com'è, Giuliani, mi scusi, quello. Giuliani, però mi scusi, perché si continua a morire purtroppo anche per terremoti in tutto il mondo, anche in paesi dove purtroppo ci sono anche un'attività sismica molto più forte della nostra? Cioè, sono tutti pazzi che non riescono a prevedere con questa teoria? Per esempio in Giappone non si muove più. Ma lì perché ci sono anche delle costruzioni, e questo è un altro tema, che noi in Italia facciamo scempio con le costruzioni rispetto a dove si costruisce con i dovuti crismi. A questo posso rispondere così, che in Italia da più di 10 anni non veniva più fatta una ricerca puntata sui precursori sismici. In altri paesi del mondo questo viene fatto, nessuno ha avuto il coraggio di poter dire che ci sarebbe stato un forte terremoto, e la nostra ricerca e la nostra tecnica ci permette comunque oggi di poterlo dire, visto che stiamo andando avanti, visto che è nato un gruppo internazionale proprio per preparare un allarme preventivo sui terremoti, un early warning system. Quindi... costituito da un gran numero di ricercatori a livello internazionale, compreso me. Quindi lei dice è amareggiato ovviamente per quello che vuol dire rivivere tutto il dolore, ma non è stupito e anzi dice è giusta questa accusa, insomma qualcuno doveva lanciare un allarme che non ha lanciato. Tra l'altro io voglio salutare, ci stanno ascoltando, il condirettore del giornale Alessandro Sallusti, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Sallusti. La linea del giornale è chiara a dire, ma insomma c'è un terremoto, chi si va ad arrestare gli scienziati che non l'hanno previsto. Saluto anche Stefania Pezzopane, che è stata presidente della provincia dell'Aquila, buongiorno. Buongiorno. A quella commissione grandi rischi ha partecipato, credo, come politico che era lì, insomma, a capire come autorità quello che dobbiamo fare. Allora, Sallusti, perché questa linea sembra non è la solita linea anti-magistrati a dire, ma insomma, che fanno questi magistrati? Vanno a prendere gli scienziati per i morti? No, noi siamo un po', come dire, allibiti di fronte a questa sentenza, per questo fatto. Cioè, un conto è quando le autorità non allertano la popolazione di qualcosa che sta accadendo con sicurezza e con certezza e che potrà accadere di lì a poco. Faccio un esempio: un maremoto è addirittura visibile, si sposta e quindi ci deve essere qualcuno che avvisa, guardate che sta arrivando l'onda. L'onda è qualcosa che c'è, che esiste e che arriverà sicuramente su una certa zona in un certo momento. Così come i tornadi in America, nel Sud America, nel Pacifico, in molte parti del mondo, i tornadi sono qualcosa di fisico che si spostano e quindi, come dire, giustamente le autorità hanno la responsabilità di sorvegliare questi eventi. Sì. Il terremoto in una zona sismica, in una di sciami sismici, è una cosa che non si sa quando e come, tanto è vero che anche il professore ha dato delle indicazioni non precise su quando accadeva, sarebbe accaduta la scossa devastante. Una scossa devastante in una zona sismica può avvenire oggi, domani, tra tre giorni, mai. Allora, come si fa a incolpare delle persone di omicidio, cioè di qualcosa di veramente molto grave, quando onestamente è come fare una previsione all'otto? Si sa che quel numero potrà uscire, ma non si sa quando esattamente. L'omicidio colposo. Io vorrei, Stefania Pezzopane, visto che lei c'era, ha colto una sensazione di dire ma no, ma state tutti tranquilli, no? Oppure erano allarmati la Commissione Grandi Rischi quando sono venuti all'Aquila? Guardi, io non fui invitata alla Commissione Grandi Rischi. C'era il sindaco dell'Aquila, forse. Il sindaco e l'assessore regionale Daniele Astati. Mi sono sempre chiesto se è stata una dimenticanza o cos'altro. Vabbè, e quindi ascoltai la conferenza stampa fatta subito dopo la riunione del Comitato Grandi Rischi e rimasi molto sorpresa, perché la conferenza stampa ebbe anche dei toni ironici. Fummo invitati come aquilani a bere un bel bicchiere di Montepulciano d'Abruzzo e a stare tranquilli. L'assessore regionale come madre invitò le altre madri a stare tranquille e non eravamo tranquilli, perché anche quella notte fecero delle scosse. Tuttavia gli aquilani, che sono un popolo e l'avrete conosciuto in questo più di un anno dalla tragedia, dignitoso e non piagnucoloso, si stette alle cose. Ora probabilmente la comunità scientifica si mantiene su questa linea della non possibilità di prevedere, però mi il chiedo, comitato grandi rischi. Però le voglio dire questo, cioè che altra giustificazione lei darebbe a una serie di scienziati che si riuniscono, capiscono che c'è un problema, bisogna evacuare e non lo dicono? Cioè, voglio dire, che razio malefica ci sarebbe sotto? Questa è fantascienza, è evidente che avranno detto quello che pensavano di dover dire sulla base delle loro conoscenze. Io penso però che non sia stato sufficientemente approfondito il tema. L'Aquila aveva avuto due terremoti nel 1300 e nel 1700 che avevano avuto la medesima sequenza, ovvero più di due mesi di scosse, diciamo, e poi il grande botto. Io vorrei aggiungere questo, che la comunità scientifica, la commissione grande. Il problema è quando, quando la grande scossa, quando? Cioè la evacuiamo oggi, domani. Non si limitò a dire può succedere perché siamo in zona ad alto rischio sismico. La comunità scientifica ci disse agli aquilani di stare tranquilli, che la situazione era favorevole, che il fenomeno rientrava nella normalità. Nessuno di noi si può sostituire ai giudici, e l'accusa è molto pesante, come è pesante l'accusa che viene fatta anche ad alcuni costruttori e ad alcuni enti per quello che attiene la sicurezza degli edifici, e nessuno deve anticipare il giudizio del giudice. Tuttavia posso dire, per conoscenza diretta anche mia personale, che in ogni famiglia quella notte ci fu un dissidio tra chi voleva uscire e ascoltando la voce della tradizione aquilana, che alla prima scossa si esce da casa, e chi invece, quella della scienza, diceva no, rimaniamo a casa, anche se ci hanno rassicurato. Anche se molti scienziati anche oggi, anche di quelli sotto indagine, dicono, per esempio, c'è uno sciame sismico da qualche giorno a Bologna, che facciamo? Nei giorni scorsi sequenze sismiche importanti a Isernia e a Bologna, che facciamo? Facciamo evacuare Bologna oggi, domani, dopodomani, per quanto tempo? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, vi sembra credibile questa accusa della Procura dell'Aquila, che appunto indaga sette persone perché di fatto non fecero evacuare l'Aquila? Questa non è l'accusa, ma insomma sottovalutarono i rischi per la popolazione civile. Dovete votare su Radio24.it, tra l'altro per ora il 63% dice di no, non sembra credibile. Io voglio salutare anche, ci stava ascoltando Sergio Bianchi, buongiorno. Buongiorno. Sergio Bianchi è il padre di Nicola. Voi avete perso Nicola, un figlio che è rimasto ucciso nel crollo di via D'Annunzio 24 all'Aquila. Era studente di biotecnologia al secondo anno. Si è letto sui giornali che un po' tutto è partito da lei e da alcuni genitori, questa vicenda che poi è sfociata in questa indagine. È così? Beh, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare da genitori. Abbiamo chiesto alle autorità di accertare l'operato di chi doveva proteggere l'incolumità dei nostri figli. All'Aquila c'erano 27.000 studenti, ospitava 27.000 studenti, e di questo credo che nessuno si sia preoccupato, come non si sono preoccupati degli aquilani. Io credo la prima cosa da fare era quella di allontanare le persone che non c'entravano niente con il terremoto, no? Che l'aquilano vive all'Aquila, purtroppo vive all'Aquila. Spostare quelli che erano lì, da fuori, diciamo, i forestieri. Mio figlio aveva una casa a Frosinone, dove il terremoto non fa tutti i giorni, e quindi forse se stava a casa non sarebbe successo niente. Cioè, potevano almeno dire coloro che non sono dell'Aquila, che sono magari qui perché studiano, vadano via per un periodo, poi vediamo, perché questo è un periodo rischioso, questo dice almeno. Io penso che questo era il minimo che si potesse fare. Ma lei questa accusa, cioè l'idea di scienziati che hanno sottovalutato e quindi sono indagati per omicidio colposo, capisco insomma che è detto a lei che ha perso un figlio. Io credo che sia giusto, pure perché quegli scienziati che hanno fatto la commissione grandi rischi e che componevano la commissione grandi rischi sono quegli scienziati che avevano previsto il terremoto entro il 2010 e il 2012. Non l'ho previsto io il terremoto. Ci sono documenti scritti, documenti che noi abbiamo consegnato alla magistratura. Capisce che però, cioè, prevederlo entro il 2012, che si fa? Si evacua l'Aquila dal 2010 al 2012 perché, cioè, per due anni? Non dico che si doveva evacuare l'Aquila, anche se all'Aquila non esisteva un piano di evacuazione, però si potevano dare delle informazioni. L'informazione è mancata totalmente. È uno dei compiti istituzionali della Protezione Civile l'informazione, quindi informare che esistevano degli studi sul patrimonio edilizio, lo famoso studio Abruzzo Engineering che la Protezione Civile aveva commissionato e pagato 5 milioni di euro, e conosceva la stabilità delle case, conosceva la stabilità di tutti gli edifici pubblici e di un terzo delle case private, ed erano tutte a rischio di crollo. Questo però non crede che sia un altro problema, un problema questo sì serio, cioè quante delle nostre abitazioni in Italia sono fatte con criteri antisismici? Questo però, diciamo, nell'accusa della Procura dell'Aquila non c'è questo, cioè nell'accusa della Procura dell'Aquila c'è non avete fatto, ripeto, non c'è questa parola evacuare, ma avete sottovalutato la previsione del terremoto. Poi certo, vivere in abitazioni non se allarghiamo il discorso a tutto il mondo, no, però adesso si parla dell'Aquila. Ah no, ma chiaro. Lo sciame sismico era in corso all'Aquila da 6 mesi, le scosse premonitrici c'erano, quelle le addette boschi, no? Che quando si supera, sono 2 scosse superiori a 4 di magnitudo, sono considerate scosse premonitrici e si aspetta la scossa più forte. Vediamo. Sì, no, ma lei dice, questa è la sua opinione, è molto chiara. Sentiamo un'ascoltatrice da Perugia, Susanna. Buongiorno. Susanna, che dice? Buongiorno. Che dice lei? Dunque, avendo poi sentito tutti, in primo luogo capisco il dolore, quindi non si può controbattere un padre che ha perso un figlio. No, ma questo sì, farei denuncia e sarei chiusa in una stanza a piangere. Quindi in me anche, insomma, il coraggio di quest'uomo, che forse trova il coraggio proprio nel combattere quello che lui vede come ingiustizia, che è l'ingiustizia della morte. Però potrei dire a quel signore: allora perché lei mandò suo figlio a fare l'università in una città fortemente dedita al terremoto? Cioè, se arriviamo a questo, forse perché si fidava, voler accettare la realtà. Forse perché il signor Bianchi dice: io mi fidavo totalmente delle autorità e che sapevo che mi avrebbero tranquillizzato. Se mi tranquillizza una protezione civile, sì, certo, io sto però prima, quando l'ho mandato all'università, l'Aquila è una città di terremoti. Ho capito. Allora, tutti gli abitanti del Friuli, sì, vadano via dal Friuli, perché il figlio si manda in una città dove il terremoto non c'è, si manda a Roma. No, ma ho capito, folle, scusi, dico, ma è folle anche dall'altra parte. È abbastanza folle, sì, se no tutto il Giappone via. No, non sono quelli che... La sento molto male, sì, sa? Dica però, Susanna, dica. No. No, mi scusi, perché io non sento. No, dico, se no vuol dire in Friuli tutti devono guardare. Cosa mi interessa di più? In Giappone prevedono, eccetera. Allora, se c'è questa forza, se questo gruppo esiste ed esisterà, tutto ha bisogno di tempo. Non c'era. Lì, in Italia non c'è, ahimè, spesso molto, ma non c'è da nessuna parte del mondo organizzazioni così forti, così fatte. L'Italia ha anche un territorio molto particolare, probabilmente come il Giappone siamo un paese di non sensi, ma da parte dei cittadini. I politici sono il frutto della nostra società, però li abbiamo andati, eletti perché sono i nostri fratelli. Se siamo andati anche ai politici, però, Susanna, così poi usciamo un po' dal seminato, come si suol dire. C'è chi ci scrive: ma chi aveva previsto il terremoto? C'era, era uno, è il nostro Giampaolo Giuliani, non è che è andato via, è qua da noi. Giampaolo Giuliani, molti però dicono: ma lei l'aveva prevista sul Mona, lei l'aveva previsto da un'altra parte, lei l'aveva previsto in un altro giorno, non quel giorno lì, o non solo quel giorno lì. E questa è disinformazione, perché non è vero. Questo è stato detto dalla Protezione Civile, perché Giuliani, quando lo disse al sindaco di Sulmona il 30 che non ci sarebbe stata nemmeno una scossa di assestamento, anzi il 29, qualcuno invece consigliò di dire al sindaco di Sulmona: guarda, di che ti ha detto che farà una scossa catastrofica, così che noi lo si possa denunciare. Cioè lei non gliel'ha mai detto al sindaco di Sulmona? Non ha mai detto a Sulmona ci sarà una scossa? Questo no, no, anzi esattamente il contrario. Per questo sono stato assolto dalla mia accusa, dalla denuncia per procurato allarme, perché ci sono testimonianze e testimoni che hanno ascoltato la conversazione con il sindaco di Sulmona ed io avevo detto esattamente il contrario. Ho detto: guardate, dalle 15:30 alla mezzanotte voi non avrete neanche una scossa di assestamento. Il problema non è tanto questo, il problema è che c'è della disinformazione, si fa della disinformazione. Intanto volevo salutare il direttore, volevo salutare il signor Bianchi e la presidentessa Stefania Pezzopane più la sua ascoltatrice. E volevo dire che la disinformazione è che una ricerca d'avanguardia come quella che abbiamo portato avanti noi per 10 anni e che ci porta oggi ancora più di ieri a poter affermare, dimostrare che i terremoti possono essere previsti. Possono essere previsti addirittura dalle 6 alle 24 ore in anticipo ed è scientificamente valido, riconosciuto negli Stati Uniti e riconosciuto a Vienna, non solo. Se mi permette ancora sì, di... è 10 secondi però perché devo chiudere, Giuliano. Sì, 10 secondi soli. Io sono convinto che la giustizia farà il suo corso, se ci saranno delle responsabilità. Di questo mi fido perché ne ho avuto esperienza personale, sicuramente qualcuno deve pagare, però quello che volevo mettere in evidenza è una cosa, che si sono commessi degli errori. E quando dei personaggi che avevano delle grandi responsabilità commettevano degli errori, o era in odore un errore, si aveva il coraggio, la dignità, si aveva l'orgoglio di dimettersi fin tanto che non fosse stata fatta chiarezza. Adesso dice questa cosa. Va bene, io su questo mi devo fermare. Ringrazio tutti. Ho rubato anche 30 secondi a Oscar Giannina, cui do la linea. Sara Spreafico in redazione, con Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo lunedì mattina.